la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, ben ritrovati a questa nuova stagione della prima volta con ospiti, storie e infinite cose da imparare. L'ospite che segna la nostra ripresa è Stefano Bartezzaghi, l'enigmista, in libreria con la Ludoteca di Babele. Perché Bartezzaghi? Perché rappresentando l'enigmistica, ovvero il gioco più praticato in vacanza, in fondo ci fa stare con un piede ancora in questa lunga estate. Allora, la prima domanda a Bartezzaghi, abbiamo deciso di farla proprio sulla leggerezza e sul gioco. Quanto ha contato il gioco nella sua vita, Bartezzaghi? Nella mia vita il gioco ha avuto una certa importanza, perché come tutti i bambini ho giocato, però con il fatto che nella mia famiglia mio padre faceva parole crociate, diciamo che ho sempre visto questo aspetto del gioco di parole, dell'enigmistica, come qualcosa che non faceva parte soltanto, diciamo, del tempo libero e del divertimento, ma che poteva essere addirittura anche un lavoro. E poi lo è diventato anche per me, perché appunto di giochi di parole mi sono occupato professionalmente fin dalla gioventù, perché ho incominciato a scriverne abbastanza presto, mi sono laureato sui temi dell'enigmistica e soprattutto poi ho coltivato questo aspetto, quello dei giochi linguistici. Quindi quando lei era piccolo, diciamo, suo papà portava a casa, mettiamola così, il lavoro, nel senso, lei è cresciuto nell'amore di questa materia dell'enigmistica, da quello che si percepisce anche leggendo le altre interviste che ha rilasciato. Si giocava molto anche con suo papà, con sua mamma, questi ricordi di infanzia? Devo dire che appunto nel libro ne parlo di questo aspetto, perché c'è stato qualcosa di curioso, perché mio padre faceva, durante l'orario di lavoro, faceva l'enigmista alla redazione della Settimana Enigmistica, e lì non si poteva disturbarlo minimamente, cioè era una dimensione professionale. E poi però lui era appassionato, oltre che di giochi di carte, altri tipi di giochi, era appassionato anche di un'enigmistica più accademica, più ristretta, che va per riviste che non arrivano in edicola. E quelle le faceva nel tempo libero. E ha coinvolto me e i miei fratelli, soprattutto mio fratello maggiore, in questa passione, per cui noi sì, passavamo molto del nostro tempo familiare, il tempo, il weekend, la sera, le vacanze, a risolvere questo tipo di giochi, a farne. Facevamo anche dei concorsi familiari interni a cui partecipava tutta la famiglia, e ho proprio dei ricordi dalla più tenera infanzia che durante le passeggiate si facevano dei giochi enigmistici molto semplici tra di noi. Era proprio una forma, insomma, uno dei romanzi preferiti di mio padre era Lessico familiare, e appunto il nostro lessico familiare era un lessico un po' anagrammato, incrociato, ecco. E quando uscivate da questo contesto familiare, lei è riuscita anche a convertire, diciamo, amici, a farsi un suo club di amici con cui continuare questo gioco poi? Non ho molto provato. Devo dire che i nostri amici che passavano da casa, se durante, per esempio, una cena a cui partecipava un mio compagno di classe o qualcosa del genere, mio padre diceva: sai, poi ho risolto la crittografia mnemonica che ieri sera, ma venivamo presi abbastanza per pazzi tutti. Io non ho mai provato, neanche poi con le mie figlie, a inoculare il virus. Poi oltretutto tutti i bambini a una certa età, tra i 7 e i 10 anni, diciamo, sono degli enigmisti eccellenti, appassionati. Io mi hanno sempre visto fare la prima enigmistica, per certi periodi appassionati anche loro, però non ho cercato, non ho riprodotto esattamente quel modello lì, perché così volevo anche lasciare libero chiunque di seguire le proprie propensioni. Quindi in qualche modo sta dicendo che anche lei, per quanto poi insomma ci sia entrato, però forse preferiva avere la strada più aperta, o sto malinterpretando un non detto che magari... No, a me è andata così, non ho replicato, okay. quelle abitudini, perché appunto forse per una forma mentale mia appunto maggiore, ma insomma non è che poi mio padre costringesse nessuno, è che per parlare con lui bisognava usare il suo linguaggio, e quindi l'abbiamo imparato. Ma anche sua mamma era dentro questo gioco, o era un outsider rispetto? Un po' sì e un po' no, un po' seguiva, e poi a un certo punto, quando ha capito che per farsi un weekend via con suo marito doveva seguirlo nei congressi enigmistici, si è andata anche lei, e ha sempre giocato un po' a fare quella che si occupava della casa e che non ci seguiva su questi piani, però era più un gioco, perché in realtà ne ha sempre masticato anche lei. Senta, nel suo libro lei cita anche molti grandi ispiratori, tra cui Eco, Aizinga, molti altri. Ecco, le volevo chiedere questa cosa, che però viene già spiegata anche nel suo libro, vorrei che la spiegasse anche ai nostri ascoltatori. Quali sono gli elementi di cambiamento proprio del gioco rispetto alle generazioni dei nostri padri, in relazione a quella anche dei nostri figli? Beh, c'è stato il libro poi parla di questo, esatto, sostanzialmente. Sì, sì. C'è stato un grande cambiamento, nel senso che mentre una volta, insomma, ma fino a non molti decenni fa, il gioco era confinato in certi tempi e in certi spazi, adesso questa barriera è diventata porosa, è diventata una membrana che lascia passare, perché l'esempio che faccio sempre io è che praticamente tutti ora, lo strumento di lavoro di tutti è il computer, in parte il telefonino, e sono due oggetti che ci vengono venduti che contengono già dei giochi, proprio a significare che con le stesse cose si può lavorare o si può giocare. Cioè, il gioco è diventato molto più pervasivo e non c'è più nulla di veramente serio. Immaginiamo un discorso politico degli anni 70 e un discorso politico fatto oggi. Ci sono proprio anche degli elementi di gioco di linguaggio, di ludicità, che sono dappertutto, per cui l'informazione diventa infotainment, la politica diventa politica spettacolo, e queste forme di seduzione, di divertimento, hanno molto spesso a che fare proprio con il gioco. E secondo lei questo è un bene o male? Cioè, è un bene o un male che la nostra sia diventata, come lei stesso l'ha definita, una società semiseria, una società di adulti semiseria? Sì, c'è questo tono semiserio che conviene usare sempre, soprattutto sui social network. Noi vediamo quelli che li usano bene, sono persone che non parlano mai del tutto sul serio, né d'altra parte soltanto in maniera scherzosa. E mi pare che proprio questo carattere semiserio sia il risultato del fatto che il gioco non è più un sostantivo, andiamo a giocare, ma è qualcosa che può succedere sempre, è un aggettivo, è il ludico che penetra dappertutto. Che questo sia bene o sia male, diciamo che le mie forze non bastano a deciderlo, perché non penso oltretutto che occorra proprio sempre fare del moralismo, anche nel senso alto della parola. Penso che occorrano più dell'analisi in questo momento, e poi ognuno deciderà per sé. Ora ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. La prima volta. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Stanno giocando a un gioco. Stanno giocando a non giocare a un gioco. Se mostro loro che li vedo giocare, infrangerò le regole e mi puniranno. Devo giocare al loro gioco, di non vedere che vedo il gioco. Dunque, ben ritrovati a questa puntata che ha come ospite Bartezzaghi, ma che ha soprattutto come centro il gioco. Gioco che, come avete sentito in questa frase di Ronald Lang, ha regole che vanno rispettate, pena l'esclusione o la rottura del gioco stesso. Un tema, dunque, quello del gioco, che sta entrando, come abbiamo sentito anche nella prima parte della trasmissione, prepotentemente nelle nostre vite, vite che Bartezzaghi non ha esitato a definire semiserie, esistenze semiserie, che però non sempre coincidono con esistenze leggere. Bartezzaghi. Beh, il gioco vive di una sua leggerezza, questo è stato detto molto prima di le lezioni americane di Calvino. È proprio un suo carattere che quasi appunto che ci gioca, ecco, si fa gioco, il gioco stesso, di chi vuole definirlo. Non abbiamo una definizione di gioco su cui siano d'accordo tutti, per esempio, per quanto invece se ne sia discusso molto nelle scienze umane, in filosofia, soprattutto da metà del Novecento in avanti. Quindi appunto sicuramente ci sono dei discorsi molto gravi che si fanno sul gioco, preoccupazione per i videogiochi, preoccupazione per le cosiddette ludopatie e dicendo, oppure ci sono dei discorsi che invece tendono a enfatizzare tutto l'aspetto liberatorio, creativo, insomma, di felicità del gioco stesso, soprattutto riferendosi ai giochi, alla dimensione del gioco infantile. E appunto abbiamo fatto il nome di Umberto Eco, Apocalitti e Centegrati, un libro del 64, e forse possiamo anche imparare quella lezione, cioè che non è appunto obbligatorio su qualsiasi evento succeda, su qualsiasi tendenza si manifesti, decidere che è un segno della fine del mondo, dell'imminenza della fine del mondo, oppure è un segno dell'imminenza del migliore dei mondi possibili. Appunto, occorre forse un po' guardarci dentro e vedere cosa c'è, cercando appunto di farlo con un po' di leggerezza per non infilzare, per non uccidere la farfalla a scopo collezionistico. E poi si assiste anche in qualche modo a uno sottrarre il gioco ai bambini, perché vediamo sempre più spesso bambini con una tabella di marcia molto serrata, no? Nella loro settimana a scuola, corso di in cui il gioco viene costretto o comunque gestito da un adulto, se si parla di gioco di squadra, mentre appunto quello che raccontava anche lei, no, il pomeriggio con suo papà a giocare a casa, in una situazione anche di abbandono, di relax, di... Sì, si osserva, adesso non so se sia quanto sia comune questa cosa, sì, è vero. Però si osserva un po' questa tendenza a irregimentare il tempo libero dei bambini, insomma, a far vivere l'infanzia come appunto una specie di master multidisciplinare, per cui oltre alla scuola bisogna suonare uno strumento, praticare un paio di sport, insomma, attività. È chiaro, insomma, il grande terrore che abbiamo, mi pare di poter dire, il grande terrore che abbiamo nei confronti dei bambini è che si annoino. Io mi ricordo di essermi annoiato tantissimo durante l'infanzia, ma appunto di aver sempre fatto abbastanza, aver anche imparato a fare i conti con la mia noia e appunto magari a inventarmi il gioco. Ecco, oggi mi quello che mi pare di poter dire è che l'infanzia ha una batteria, un repertorio, una gamma di giochi già inventati, già pronti, che si offrono per appunto il non è che il bambino non stia giocando, sta giocando, un bambino che va a lezione di basket, di mini basket a 8 anni, sta giocando a basket, non sta effettivamente facendo uno sport, però è un gioco che appunto ti accompagna la mamma o il papà, ci sono degli orari, ci sono, è tutto molto schematico, mentre ecco quella libertà di inventarsi i propri giochi è qualcosa che dipende anche dalla noia di un momento, no? Quel quarto d'ora prima della merenda che non passavano mai, e qui abbiamo un po', facciamo fatica a concedere questa noia ai nostri figli. Un'ultima domanda, poi la lascio andare. Lei ha un contatto diretto con le persone che la seguono, insomma, quali sono le cose che la appassionano di più di questo contatto, o magari le cose che non le piacciono assolutamente, se ci sono? Beh, io appunto tramite le mie rubriche per molti, molti, molti anni ho avuto della posta, prima cartacea, poi elettronica, sui giochi che proponevo nei giornali a cui collaboro, e questo succede ancora, ma poi ognuno in realtà ha degli spazi propri, dei blog, dei siti in cui mandare avanti questi giochi anche in forma autonoma. La cosa bellissima che mi ha appassionato ancora prima che io pensassi che potesse diventare il mio mestiere sono quelle che Paolo Dossena, che appunto ha curato rubriche prima di me, insomma è stato la persona a cui mi sono più ispirato in questo mestiere, e proponeva un gioco come la ricerca delle parole panvocaliche. Le parole panvocaliche sono come aiuole, quelle che contengono tutte le vocali, no? Una volta sola, 5 vocali tutte diverse, A, I, U, O, E. E questa ricerca, mi ricordo nel periodo di un paio di mesi in cui è durata, era veramente appassionante, perché uno parlava, cioè io ero all'università, stavo studiando, a un certo punto leggo surrealismo e mi accorgo che surrealismo è una di queste parole, U, E, A, I, O, oppure anche freudiano, E, U, I, A, O. E queste cose che possono sembrare appunto cose un po' da pazzi, forse faccio male a parlare nella radio, ma sono appunto, lui le chiamava infezioni mentali, e sono, possono diventare veramente una caccia assolutamente appassionante. A volte mi è capitato di innescare verso i lettori appunto infezioni di questo tipo, e è veramente molto, molto divertente. A cosa serva non lo sa nessuno, e forse non lo si può, anche sapendolo non lo si può tanto dire. Va bene. E dunque siamo giunti ai saluti finali, siamo riascoltabili online, mentre se avete storie da raccontarci scriveteci alla prima volta a radio24.it. A domenica prossima, sempre attorno alle 23. Ciao a tutti. No horse on 8th Avenue, 'cause tonight I'm gonna be with you. 'Cause tonight I'm gonna take that ride, cross the river to the Jersey side, take my baby to the carnival, and I'll take you all over. Sure, everything's alright. You and your on a Saturday night. Don't you know when my dreams come true? When I'm walking down the street with you, sing sha la la. Thank you.